Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spie nel mio microfono. So bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle palle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi danno olio all'ingranaggio. Con le leggi bianche al potere, tra bocchini sotto scrivanie tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali vogliono vegetali, schiavi in fila come militari, perciò mandano i loro emissari a scuola i miei professori. In strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali nei televisori, predicatori vendono la fede a rate. Comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito. Valgo più di 4 cifre, non credi? Cronache di regime, cose che non vedi. Cose che non vedi, che non vedi. Cospirazioni, cospirazioni, cospirazioni. Per il 2000, per il 2000, Sarà scuola, sarà scuola, sarà scuola. Allora, vogliamo iniziare adesso questo incontro per il quale abbiamo in collegamento anche un compagno dalla Sardegna che si trovava in Corsica nel momento in cui sono scoppiate le rivolte nel marzo scorso in seguito al ferimento e alla morte di Ivan Colonna nelle carceri francesi. Abbiamo voluto fare questo incontro perché quella che si è dispiegata poi in Corsica è stata una situazione di scontri e di guerriglia in alcuni momenti molto interessante, quindi cioè, ci sembrava anche importante andare al di là del porno riot che possiamo farci e cercare di capire quali sono le ragioni di una rivolta, come si organizza, chi ci partecipa, e anche perché così potevamo conoscere una realtà che penso non conosciamo così bene a queste latitudini. Gli scontri che ci sono stati adesso in Corsica sono stati forti ed era anni che non giungevano notizie così da quell'isola, e quindi ci sembrava giusto parlare di quello che era successo là, anche per conoscere appunto meglio altri contesti di lotta e altre situazioni. Allora, prima di parlare con il compagno Corso, faccio una breve introduzione su chi era Ivan Colonna. Ivan Colonna era un militante dell'FLNC, del Fronte di Liberazione Nazionale Corso. Lui è stato accusato di aver partecipato ad un attentato alla gendarmeria di Pietrosella nel 97 e poi è scappato latitante dal 99, anche con l'aiuto del gruppo clandestino che fa parte, insomma, di una parte scissionista dell'FLNC. Poi dopo facciamo anche due parole magari appunto sul Fronte Liberazione Nazionale Corso e sulla storia, poi magari il compagno in collegamento dalla Sardegna integrerà. È stato appunto latitante dal 99 al 2003 e poi è stato arrestato nel 2003, è stato condannato appunto per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo per questo tra virgolette attentato alla gendarmeria di Pietrosella, e soprattutto lui è stato condannato all'ergastolo per l'uccisione del prefetto Claude Erignac. L'accusa è appunto di aver usato delle armi che sono state rubate in quella gendarmeria. Cosa succede? Nel 2022 appunto lui era recluso nel carcere di Arles vicino a Marsiglia, e il 2 marzo c'è un'aggressione, c'è una colluttazione diciamo con un altro detenuto. I secondini non intervengono, diciamo per 8 minuti Ivan Colonna viene strangolato e viene colpito a cazzotti in faccia da quest'altro detenuto, molto più giovane di lui. Ricordiamo che lui è nato nel 1960, quindi aveva 62 anni, invece l'altra persona 35. Comunque, al di là di questo, quello che recriminano tutte le associazioni corse e tutti i movimenti di lotta corsi è che i secondini non sono intervenuti e hanno fatto in maniera tale che Ivan Colonna insomma, rimanesse lì e andasse in coma. Quindi Ivan Colonna dal 2 marzo va in coma, iniziano tutta una serie di mobilitazioni in Corsica e il 21 di marzo muore. Nel frattempo, diciamo, la tensione era salita in maniera evidente. Lo Stato francese ha provato a mettere, se possiamo così dire, delle pezze, cercando di sospendere la pena Ivan Colonna appena 3 giorni prima, che poi, se non mi sbaglio, 3 o 4 giorni prima, che poi insomma è morto. E dato che la rivendicazione da sempre di molte associazioni e molti movimenti di lotta corsi è il fatto di volere i propri prigionieri nella loro terra, a due prigionieri nello specifico, quindi a Ferrandi, e ora non mi ricordo chi, scusa, a Ferrandi e ad Alessandri è stato tolto lo status di detenuto politico, comunque attenzionato, sorvegliato. Nel senso che questi prigionieri politici sono appunto considerati terroristi e quindi non possono andare nelle carceri corse, perché non ci sono carceri adeguate o carceri speciali per lo Stato francese per la detenzione. E quindi con questo status dovevano rimanere detenuti in Francia. Per cercare di attenuare la situazione, la Francia ha una certa ha tolto questo status di attenzionamento nei loro confronti, però la tensione comunque non è calata. Poi all'oggi loro sono in Corsica, ma questo solo ed esclusivamente, poi dopo si vedrà nel corso del tempo, però all'oggi sono in Corsica perché per la legge in Francia anche i detenuti devono tornare nelle loro zone, insomma, diciamo, per le elezioni. Come sapete ci sono le elezioni presidenziali in Francia, che tra l'altro mi pare che domani ci dovrebbe essere il secondo turno del ballottaggio presidenziale tra Macron e Le Pen, ma questa è un'altra argomentazione, non entriamo nello specifico. Allora, facendo 2 parole rapide sul fronte di liberazione nazionale corso, diciamo che dichiara la propria nascita nel 5 maggio 1976, viene tra una fusione tra il fronte contadino corso di liberazione, tra il Partito per il Socialismo della Corsica e la Giustizia Paolina. Per chi non lo sapesse, Francesco Paoli è considerato da sempre tipo un grande nazionalista e indipendentista corso, ma già nell'epoca del 1700, tipo tra il 1755 e il 1769, fu dichiarata la Repubblica indipendente corsa appunto sotto la guida di questo stratega militare. E, come modalità di azione, l'FLNC si riconosce per quelle che chiamano loro notti blu, vengono definite così, quindi sono una serie di attacchi coordinati tutti nello stesso giorno, quindi si presentano più o meno così, mi pare della notte tra il 4 e il 5 maggio del 76, fanno tipo 22 attacchi coordinati in una notte. Diciamo che poi nel corso degli anni in Corsica, oltre all'FLNC, poi c'erano anche altri movimenti, ma c'erano anche dei movimenti in opposizione, uno denominato proprio Francia, che stava per, ora vi do la traduzione in italiano, Nuovo Fronte d'Azione contro l'Indipendenza e l'Autonomia. E nel 77 iniziano anche loro ad attaccare insomma sovrastrutture, persone e militanti del fronte di liberazione nazionale corso. Un primo cessate il fuoco avviene nell'81, ma con l'elezione di Mitterrand dell'82 ripartono nuovi attacchi. Il 9 agosto dell'82 c'è una nuova notte blu, dove ci sono 99 attacchi in maniera contemporanea contro degli obiettivi governativi. Ad una certa, diciamo che l'FLNC assume le forme un po' si va ad allineare a quelle che erano le formazioni paramilitari dei Paesi Baschi, ovvero l'ETA, e quelle che erano nell'Ulster, in Irlanda del Nord, dell'IRA, cercando di portare il conflitto e l'attacco allo Stato colonialista francese non solo in Francia ma anche proprio in terra francese. Quindi voi ci conquistate, noi vi portiamo il terrore dentro casa vostra. Una nuova tregua arriva nell'88, poi vado in maniera abbastanza rapida, nel 90 anzi scusate, poi nell'83 in realtà dichiara lo scioglimento e c'è una scissione tra Brigate Rivoluzionarie Corse e Armate di Liberazione Corse, l'impronta era sempre sinistro-orsa. Nel 1987 poi si ricostituisce con un'ala partitica che si chiama Acun Colta Nazionalista, e quindi questa è sempre la sezione più o meno autonomista più che indipendentista, o forse viceversa, scusate. Negli anni 90 comunque c'è una grossa divisione tra l'FLNC, tra Canal Historique e Canal Habituel, iniziano ad esserci anche faide interne abbastanza importanti. Come detto, l'FLNC, poi Canal Historique, si rifà un po' di più a quello che è la concolta nazionalista, che poi diventa tra l'altro indipendentista, e si divide anche in un'ala partitica, Presenza Nazionale e Armata Corsa, mentre invece l'FLNC, Canale Habituel, che si riconosce, viene ridenominato anche Movimento per l'Autodeterminazione, l'MPA. Insomma, arriva lo scioglimento nel 96, dividendosi anche esso in un'ala partitica e in quelli che si oppongono, diciamo, all'ala partitica. L'ala partitica è Corsica Viva, mentre invece poi si crea un'ala oltranzista dell'FLNC, di questo FLNC Habituel, che si chiama 5 Maggio, da cui tra l'altro poi dopo nel 99 arrivano degli accordi di pace. Dall'FLNC 5 Maggio si crea Clandestino, che è una, diciamo, fazione che poi ha partecipato, insomma, anche a sostegno di tutti quei militanti, quei prigionieri politici corsi che erano in lotta e che erano latitanti, tra cui Ivan Colonna. Per concludere, appunto, nel 99, come dicevo, c'è stato in generale un accordo di pace e ancora l'FLNC, che aveva subito varie scissioni, poi si è ricomposto, poi perdendo dei pezzi nell'ala partitica, si ridivide ancora in FLNC Unione dei Combattenti e 22 ottobre. Potremmo andare avanti forse all'infinito, perché poi dopo loro dichiarano il definitivo scioglimento, se non mi sbaglio, il 2014. Nel 2016 poi fanno delle dichiarazioni postume a degli attentati islamici e islamisti, insomma, dicono ai jihadisti: se venite in terra corsa poi ve la dovete vedere con noi. Però non entriamo nello specifico, questo era, voleva essere più o meno un cappello introduttivo su la persona che era Ivan Colonna e quello che è stato l'FLNC. Vabbè, ora lasciamo la parola al compagno Sardo, che ci spiegherà un po' cosa è successo dal 2 marzo in poi in Corsica. Ciao, ci senti? Sì, vi sento, mi sentite? Sì, sì, forte e chiaro. Sì, ok. Ciao a tutti e a tutte. Allora, sì, parto proprio dalle cose che dicevi tu, Pasca, e aggiungo una cosa che mi sembra che non ho sentito e che però secondo me ha pesato molto nell'andamento di questa rivolta, e cioè il fatto che Ivan Colonna era un prigioniero politico particolarmente riconosciuto in Corsica e particolarmente, diciamo, legato alla cultura popolare, perché a differenza degli altri due prigionieri che erano stati accusati dell'omicidio del prefetto Rignac, lui si è sempre dichiarato innocente. Quindi diciamo che la sua figura era, lui veniva visto appunto come il militante corso innocente che subiva la vendetta dello Stato. Su questo elemento, diciamo, ci sono teorie diverse. Qualcuno dice che se fosse morto un altro dei due militanti probabilmente non sarebbe successo tutto questo. Questo ovviamente non si può sapere. Sicuramente non, tutto quello che è accaduto non è accaduto solo perché lui si è dichiarato innocente. Sicuramente c'era una rabbia che covava in Corsica da diversi anni, dovuta ad anni di frustrazioni, soprattutto legate a, appunto, alla fine della lotta armata e alla scelta elettorale come unica via di lotta. Quindi non si può dire con precisione quanto questo fatto ha pesato, ma sicuramente è una cosa secondo me degna di nota. E infatti, comunque, nel senso, appunto, la figura di Ivan era conosciuto da tutti i corsi. Mi ha fatto impressione infatti vedere quando è arrivata la sua salma da Iaccio, la notizia dell'arrivo della salma è arrivata 3 ore prima dell'arrivo, e c'erano circa 3.000 persone in piazza, la gente piangeva, e infatti qualcuno diceva è come se fosse morto Bobby Sands per l'Irlanda del Nord. Quindi questo per un po' inquadrare un po' meglio il personaggio. Poi cosa dire? Vabbè, sulla parte storica diciamo hai già detto tanto. Io l'unica cosa che ci tenevo a dire è che la lotta per la liberazione della Corsica si è riaccesa un anno prima della nascita dell'FLNC, che è appunto nato perché nel 75 avvenne un'occupazione di alcuni terreni che lo Stato francese decise di concedere a dei generali francesi che tornavano dalla guerra in Algeria, che venivano chiamati Pied Noirs. Praticamente un gruppo di 12 militanti autonomisti occupò un terreno con i fucili e lo Stato francese inviò 1200 gendarmi per liberarlo. Questo episodio qua è proprio quello che nel secolo scorso riaccende la lotta di liberazione nazionale corso. E infatti poi l'anno successivo si fonda il Fronte di Liberazione Nazionale, che avrà una storia, come dicevi tu prima, appunto molto, molto complicata, anche con dei periodi lunghi di lotte interne, di omicidi appunto anche all'interno e soprattutto tra il fronte e la mafia. Però questa è una storia che magari vediamo più tardi, che è abbastanza complessa. Io provo a fare un po' di ripercorrere diciamo un po' i passaggi di questa rivolta, che appunto come dicevi tu prima è partita il 2 marzo. Casualmente quei giorni in Corsica c'era un incontro internazionale tra diverse realtà indipendentiste organizzato dalla gioventù indipendentista, quindi diciamo era un momento già di mobilitazione, c'era anche gente diciamo da diverse parti d'Europa, infatti per questo motivo io ero lì proprio in quei giorni. Appunto arriva la notizia dell'aggressione a Ivan e assieme alla notizia dell'aggressione arriva pure la notizia che ad aggredirlo è un detenuto jihadista. Questo fatto qua subito spaventa tanti militanti, perché ci sono grosse parti del movimento di liberazione corso che sono di destra e hanno posizioni razziste, quindi si temeva che ci potesse essere diciamo un attacco agli immigrati, che in Corsica sono tanti. Ci sono il 40.000 arabi in Corsica. Già negli anni passati è capitato che ci furono degli attacchi, quindi diciamo subito si sparge questo timore, che però diciamo non ha tanto seguito. Infatti poi in questo mese qua non c'è stato neanche un attacco a strutture o comunque a persone arabe, e infatti su questo sono state molto brave le organizzazioni sia autonomiste che indipendentiste, che fin da subito hanno detto la colpa è dello Stato e noi dobbiamo prendercela con lo Stato. È stato particolarmente importante un'assemblea che c'è stata il giorno dopo l'aggressione di Ivan, che è avvenuta a Corte, dove appunto c'erano circa 500 persone, ed è stata una scena per me surreale, perché c'erano tutti i giovani diciamo delle organizzazioni indipendentiste e c'erano tutti i capi di partito, tra cui anche Simeoni, che è il capo della regione Corsica, quindi il più alto grado in Corsica, che parlava con i giovani presenti a tu per tu, come se fossero dei compagni di classe. Quello è stato il primo grosso momento, e a me ha colpito tanto, perché da parte appunto dei capi di partito e dei più grandi c'è stato subito un delegare tutto ai giovani, che poi era una questione all'inizio solo formale, però ha fatto un certo effetto, perché appunto il capo della regione Corsica ha detto voi giovani pagherete le conseguenze delle scelte che farete, quindi siete voi che dovete decidere come impostare questa mobilitazione. E infatti da lì poi i giovani hanno deciso di iniziare subito chiamando un corteo per la domenica. Questo mese appunto di rivolte è andato avanti di domenica in domenica, ne è stata saltata solo una. E appunto ogni domenica c'era una grossa manifestazione in una città diversa della Corsica. Questi qua sono sicuramente stati i momenti di scontro più grosso con la gendarmerie, e poi sono stati ovviamente accostati a tantissime piccole manifestazioni che ci sono state durante la settimana. La settimana sicuramente più calda è stata quella che è partita con domenica 6, che c'è stato il primo corteo a corte, ed è arrivata fino a domenica 13 con il corteo di Bastia, che è stato cioè un momento di scontro per me mai visto prima, nel senso c'erano 10.000 persone in piazza, scontri per 6 ore di fila, 70 sbirri feriti, una quantità di giovani che partecipavano agli scontri incredibile, e soprattutto tutto il corteo che rimaneva lì a sostenere chi faceva gli scontri per tutto il tempo. Dopo appunto poi dopo queste due giornate, corte e Bastia, appunto durante la settimana con diversi presidi davanti alle prefetture, la prima settimana praticamente quasi in tutte le città, anche nelle città minori, anche in città dove la gente non sapeva ci fossero dei militanti, sono state attaccate le caserme, sono state attaccate le prefetture e le sottoprefetture. Ad Ajaccio il tribunale è stato incendiato completamente. Diciamo è stata quella prima settimana, è stata molto, molto calda. Dopo il corteo di Bastia, che appunto è stato quello più grosso, il fronte di lotta ha iniziato a scricchiolare. Ha iniziato a scricchiolare perché Macron ha capito che doveva intervenire e quindi ha promesso che in settimana avrebbe mandato il ministro dell'interno, che poi è arrivato il giovedì della settimana successiva. Quindi la Francia apre le contrattazioni, appunto concede qualcosa perché toglie lo statuto di carcere speciale a Ferrandi e Alessandri, e quindi iniziano a fare le prime concessioni. E qua infatti c'è stata una dichiarazione che poi è diventata la più famosa forse di questo mese di rivolta, di un esponente di partito che dice è assurdo che hanno guadagnato più i giovani in 7 giorni di violenza che noi in 7 anni di contrattazione. Appunto, quindi questa settimana qua arriva il ministro dell'interno e inizia a contrattare. Il fronte di lotta più o meno richiede 3 cose. La liberazione dei prigionieri politici, la riconoscenza del popolo corso, che di base cioè, vorrebbe dire l'autonomia, però non è che l'hanno spiegata bene che cosa vuole dire questo punto della rivendicazione, e poi la riconoscenza ufficiale della lingua corsa. Lo Stato fa delle promesse, ma ovviamente non può sbilanciarsi troppo su questi temi, però una fetta di movimento un po' a bocca. E infatti gli autonomisti iniziano ad arretrare, diciamo ad essere un po' titubanti sull'andare avanti con la mobilitazione di piazza. Scusate, appunto, come diceva prima Pasqua, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, ma il Movimento di Liberazione Nazionale in Corsica è spaccato tra indipendentisti e autonomisti. Gli indipendentisti vogliono l'indipendenza completa dalla Corsica, ma si accontentano anche di un'autonomia di un'autonomia come passo per l'indipendenza. Gli autonomisti invece dicono: noi non riusciamo ad essere indipendenti completamente, quindi vogliamo solo che lo Stato ci riconosca un'autonomia, ma comunque potremmo anche stare sotto lo Stato francese. In questa, poi adesso lo vediamo, ma con l'andare avanti della rivolta poi queste posizioni si sono divise molto. Appunto, quindi come dicevo prima, lo Stato fa le prime promesse, gli autonomisti un po' abboccano, gli indipendentisti invece puntano tutto sulla mobilitazione di piazza e continueranno a farlo fino alla fine. Da questo punto di vista, sicuramente da parte degli indipendentisti c'è da parte dei partiti indipendentisti dico c'è un voler spingere sulla la rivolta di piazza, perché comunque è l'espressione di una fetta di popolazione molto ampia. D'altra parte loro vogliono anche utilizzare questo momento per scazzare definitivamente con gli autonomisti e provare a guadagnarci qualcosa alle elezioni future. Ma questo poi lo vedremo dopo. Comunque, quindi, dopo questo passaggio qua, la mobilitazione entra in stallo, e infatti per la domenica successiva non viene chiamata nessuna manifestazione. Tutti si domandano come può proseguire la rivolta, ma nessuno riesce a darsi una risposta. La risposta però arriva dai fatti, nel senso che il lunedì dopo la domenica senza manifestazione muore Ivan. Lì appunto quella settimana lì è stata vissuta completamente all'insegna del lutto, si è bloccato tutto in Corsica quei giorni là, cioè non si poteva fare un'iniziativa di piazza, era quasi vietato praticamente. Si è bloccato tutto a tal punto che in Corsica c'erano due blocchi ai depositi petroliferi organizzati, perché ce ne sono stati tanti anche in Francia, ne sono stati organizzati due anche in Corsica per protestare contro il rincaro appunto dei prezzi. Questi due blocchi qua hanno smobilitato dicendo in solidarietà alla famiglia Colonna, smettiamo di bloccare queste fabbriche petrolifere, smobilitiamo e riprenderemo dopo il funerale. Quindi più o meno il funerale viene visto come momento di per mettere una pietra sopra a questo momento di lutto. Sia l'arrivo della salma che il funerale, come dicevo prima, sono stati momenti partecipatissimi, di migliaia di persone, molto, molto emozionanti, diciamo, da vivere dall'interno. Il funerale è stato appunto venerdì 25 e poi la mobilitazione è ripartita col botto, per così dire, perché la sera del funerale è uscito fuori un video degli sbirri francesi che festeggiano alla morte di Ivan in una caserma di Bastia. Questo fatto qua fa incazzare tantissimo. E quindi per la domenica successiva vengono chiamati due presidi davanti alle caserme dei CRS, che sarebbero praticamente la celere che abbiamo qua. Questi due presidi finiscono in scontri, e soprattutto a Bastia gli scontri durano fino a tarda notte. Quindi diciamo questo è stato un po' il modo che hanno trovato i gruppi e le organizzazioni per ripartire con la lotta. Dopodiché la settimana successiva c'è stato un altro corteo ad Ajaccio, durante la settimana appunto ci sono state altre piccole manifestazioni con scontri, però da questo momento in poi tra indipendentisti e autonomisti le strade si sono divise. Gli indipendentisti hanno continuato sino alla fine a puntare appunto sul torniamo in strada, stiamo sotto le prefetture, sotto le caserme, richiediamo la liberazione degli arrestati. Gli autonomisti invece si sono proprio tirati indietro con una dichiarazione molto netta, hanno detto basta la mobilitazione in piazza, adesso è l'ora della contrattazione. E quindi dopo il corteo ad Ajaccio, che è stato l'ultimo grosso appuntamento, la mobilitazione è un po' calata. Il corteo ad Ajaccio è stato il 3 aprile. L'unica cosa che sì, nelle settimane successive ci sono stati alcuni presidi anche abbastanza partecipati, però poi le organizzazioni indipendentiste si sono concentrate sull'invitare la gente a boicottare le elezioni presidenziali. Questo boicottaggio però in realtà al primo giro non ha avuto tutto sto effetto che speravano, nel senso che il 63% dei corsi ha votato, tra l'altro la Le Pen ha stravinto in Corsica rispetto a Macron, e quindi niente, non, diciamo, non è andato come speravano. Adesso ci stanno riprovando per il ballottaggio di domani, però tra il primo turno delle elezioni e questo ballottaggio non c'è stata neanche un'iniziativa di piazza. Quindi diciamo che la fantasia un po' sta venendo a mancare, e appunto purtroppo comunque dopo un mese di rivolta di questo tipo non è facile andare avanti. Lì se le organizzazioni non lanciano delle iniziative è difficile che qualcuno lo faccia di sua spontanea volontà, e quindi la situazione in questo momento è questa. C'è da dire che col calare appunto della fantasia di piazza è sicuramente aumentata la fantasia clandestina, per così dire, nel senso che col venir meno delle mobilitazioni in piazza sono cresciuti tanto gli attacchi notturni. Nelle ultime 2 settimane sono stati una decina più o meno gli attacchi soprattutto alle proprietà francesi, o proprietà turistiche o seconde case. In alcuni casi sono state anche rivendicate apertamente, appunto, per Ivan francesi fora. Quindi più o meno la situazione è questa. Cosa dire? Io provo, per esempio, una delle cose che secondo me è più interessante di tutto questo mese che c'è stato in Corsica e che probabilmente sarà la base su cui costruire le mobilitazioni per il futuro, è stata sicuramente la partecipazione giovanile, che ha sconvolto i militanti corsi, nel senso che non se l'aspettava nessuno. In questo momento, guarda, a dir la verità, in questo momento le organizzazioni indipendentiste non sono in un momento tanto fiorente, nel senso che dal 2014 nel 2014 l'FLNC ha messo in pausa la lotta armata, e nel 2015 è stato il primo anno in cui è stato eletto un governo corso, nel senso i partiti, la coalizione tra gli autonomisti e gli indipendentisti hanno vinto le elezioni. Quindi dal 2015 in poi la contrattazione con lo Stato francese è avvenuto quasi esclusivamente nella politica dei piani alti, diciamo. Quindi in questi anni qua si è accumulata tanta rabbia, tanta insoddisfazione. Sicuramente questa insoddisfazione poi è sicuramente venuta fuori de botto. Però quello che diciamo lascerà il segno sul futuro è appunto la partecipazione di tutti questi giovani che non sono all'interno delle strutture indipendentiste, ma continuavano a scendere in strada, continuavano a aver voglia di stare in strada, appunto ci sono state scene davvero dove ad Ajaccio gli scontri sono andati avanti fino alle 11 di notte con 50 incappucciati che non mollavano, fino alla fine volevano continuare a scontrarsi con la polizia. È impressionante. E appunto quello che anche i militanti corsi hanno riconosciuto come un fattore di cambiamento rispetto al passato è che questa partecipazione giovanile ha cambiato un po' i connotati di quella che era la rivolta, cioè la lotta di liberazione corsa tradizionale, perché questi giovani qua sono sicuramente figli della cultura corsa, quindi figli di una cultura comunque conservatrice, con delle tradizioni molto rigide, ma sono anche figli del mondo globalizzato, e quindi si vede che sono ispirati anche da immagini della rivolta di Atene, cioè si vede che sono giovani cresciuti nei social network. E infatti per esempio, due cose che secondo me hanno stupito i militanti in Corsica. Da una parte, questi giovani qua hanno completamente escluso il razzismo dalla, diciamo, come elemento che comunque in Corsica era abbastanza presente, nel senso che non ci sono mai stati episodi di razzismo durante i cortei. Anche diversi immigrati di seconda generazione hanno partecipato alle mobilitazioni. Questo è una cosa che ha colpito, diciamo, non me, che non l'avevo mai visto prima, ma chi lì ci è cresciuto. E poi, per esempio, anche il rapporto con tra giovani, e quindi il rapporto anche tra gli uomini e le donne, perché per esempio in Corsica, nelle organizzazioni indipendentiste, c'è una divisione netta tra uomini e donne, nel senso che le donne si occupano principalmente di ruoli, diciamo, di burocratici, nel senso, ci sono anche organizzazioni che hanno dei capi donna, però non si occupano mai di, non può, diciamo che le donne non facevano gli scontri, non partecipavano ai momenti di rivolta, e invece quest'ultimo mese sì. Anche questa cosa qua, per esempio, alcuni militanti in Corsica hanno detto: si vede che sta cambiando qualcosa, questa partecipazione di giovani sta dando una spinta diversa rispetto al passato, e si vede. Questo secondo me è l'elemento più interessante, che poi sarà appunto la base, appunto, per le mobilitazioni degli anni futuri. Sì, più o meno io mi fermerei qua, poi, cioè, se avete domande da fare, a me fa piacere, perché dire tutto è difficile, quindi se sono stato carente in alcune parti e mi chiedete, io... Sì, vabbè, io volevo farti un paio di domande su un paio di cose che, appunto, essendo un'argomentazione molto complicata, magari non hai accennato, ma potevano essere cose interessanti. Vabbè, volevo riprendere innanzitutto il fatto dell'attacco alle seconde case, anche alle cose turistiche, alle situazioni turistiche. C'era la firma, se non mi sbaglio, IFF, ovvero i fora francesi. Riguardo a questo, io avevo letto che, poi non so quanto sia veritiero, comunque ero uscito sul Corse Matin, che è tipo un quotidiano comunque locale corso, tipo un comunicato dell'FLNC che dichiarava che se la situazione non era cambiata, questa ancora prima della morte di Ivan Colonna, sarebbero iniziate nuovamente delle azioni notturne all'interno della macchia mediterranea. Quindi volevo capire se poi effettivamente, come hai detto tu, questa modalità differente d'azione può essere ricollegata a quello che volevano far passare loro con quel comunicato, nel senso che l'FLNC si stava riformando, ma in altre forme. E due cose al volo, tipo il concetto di isola morta e il sostegno che c'è stato da parte degli avvocati nei confronti di chi si metteva in prima linea nella lotta e nelle giornate di lotta, appunto. Ok, allora parto dalle prime cose che hai detto. Mi riallaccio proprio a una delle cose che hai detto, che hai... Tu hai detto che in uno degli attacchi usavano la sigla IFF. Appunto, una cosa che in Corsica è molto comune, è tra, diciamo, che i militanti sono riusciti a rendere dei veri e propri motti, cioè ci sono migliaia di scritte nei muri che riportano queste cose qua. Loro praticamente siglano tutto. IFF, AFF, IFF sarebbe i francesi fora, AFF a Francia fora, poi ce ne sono anche tante altre, però secondo me è abbastanza interessante questo utilizzo che fanno delle sigle, perché è una cosa che riesce ad avere una riproducibilità molto ampia, e poi appunto viene utilizzata sia negli striscioni in testa ai cortei, sia appunto nelle azioni notturne. Allora, rispetto alla prima domanda che hai fatto, allora, c'è da dire che l'FLNC, nonostante abbia nel 2014 abbia posto fine alla lotta armata, non ha smesso di partecipare al dibattito politico. nel senso che è capitato in questi anni che si esprimesse. Recentemente, per esempio, a settembre, aveva già fatto uscire un comunicato dove diceva: noi nel 2015, con le elezioni, ci siamo fidati di voi. Vi abbiamo lasciato lo spazio di contrattare con lo Stato francese in questo modo, ma voi non state facendo abbastanza. Se continuerete così, noi dobbiamo rivalutare l'inizio, una nuova ripresa della lotta armata. Questo l'avevano già detto a settembre. Dopo il corteo di Bastia, l'FLNC ha fatto uscire un nuovo comunicato dove più o meno ribadisce lo stesso concetto, e in più dice: stiamo a fianco della gioventù corsa, siamo speranzosi perché sappiamo che i giovani che oggi sono in strada sono quelli che attaccheranno di notte domani. Questa cosa qua ovviamente è stata molto sentita a livello di piazza, nel senso, comunque una presa di posizione di questo tipo da parte dell'FLNC secondo me ha dato molto stimolo alle parti più giovani dei militanti, non solo. Comunque, detto questo, nel senso, secondo me l'espressione dell'FLNC non è da legare al fatto che poi siano avvenuti effettivamente degli attacchi notturni, nel senso che in questi anni qua gli attacchi notturni in Corsica non si sono mai fermati, nonostante l'FLNC sia in pausa. Tantissimi gruppi attaccano, usano un sacco di sigle diverse. È una cosa, tra l'altro, che è stata completamente assorbita dalla cultura locale, l'attacco alla struttura francese. Ma nel senso che è allucinante che, per esempio, nei tabacchini in edicola vendono gli adesivi col simbolo della bomba o con l'uomo dell'FLNC col mitra in mano. Quindi è una cosa completamente assorbita questa dell'attacco alla struttura francese. Ultimamente sicuramente non è avvenuto questo mese, non credo che siano mai venute fuori dissociazioni per questi atti. Più o meno ti ho soddisfatto. Sì, no, riguardo questa roba qui. Ok. Isola Morta. No, però... sì. Ok, sì, di Isola Morta. Se potete spiegarci un po' meglio. Allora, l'Isola Morta praticamente è una pratica che hanno in Corsica, che consiste appunto, quando viene chiamata l'Isola Morta, viene fatto un appello a tutte le attività commerciali o comunque a qualsiasi tipo di attività di fermarsi. E ovviamente questo vale sia per le attività, diciamo, private, ma spesso questa pratica viene accolta anche dalle istituzioni corse. Infatti, il giorno del funerale di Ivan, il 25 marzo, era stata chiamata l'Isola Morta, che era stata accettata anche dal governo corso. Infatti, le istituzioni corse hanno chiuso il giorno del funerale di Ivan Colonna. E questa roba qua in Francia ha fatto tanto scandalo, perché si parlava di questo fatto appunto come inaccettabile, si diceva è impossibile, cioè non è possibile che le istituzioni corse chiudano per la morte di quello che loro definiscono un terrorista. Quindi c'è appunto questa chiamata qua. Io devo ammettere che il giorno del funerale, tipo nella città dove ero io, che era Corte, c'erano tante attività aperte, però per esempio a Cargese, nel luogo del funerale, era completamente tutto chiuso. Un'altra cosa, che quando questa chiamata funziona, avviene, che c'è una cosa abbastanza forte, è appunto il blocco dei porti. Questa volta qua, da quello che ho capito, non sono mai riusciti a bloccare completamente l'isola, però per esempio due giorni dopo l'aggressione di Ivan, quindi a inizio marzo, un collettivo di portuali era riuscito a bloccare un traghetto su cui stavano viaggiando dei gendarmi, che sono dovuti tornare indietro e non hanno potuto sbarcare. Quindi l'Isola Morta è praticamente come una specie di sciopero generale, tutto chiuso. Poi ognuno aderisce in base alla sua volontà. La cosa sicuramente significativa è che hanno aderito le istituzioni corse e quindi è stato un messaggio, diciamo, abbastanza significativo, secondo me. Io ti faccio l'ultima domanda, poi penso ci saranno una serie di domande anche da parte di persone che stanno qui, ma perché secondo me è stata una cosa super interessante, il sostegno che si è creato subito alle persone che appunto hanno iniziato a lottare, tipo il sostegno legale, perché non è una cosa così scontata, magari in Italia tra compagni e compagne questa cosa è naturale, però lì diciamo, cioè se ci volevi spiegare solo questa roba qui. Allora, guarda, la prima settimana dopo il corteo, dopo il primo corteo dove ci sono stati alcuni arresti e appunto poi gli arresti nei giorni successivi sono stati numerosi, tra l'altro c'era un tasso di arrestati che era una bella fotografia sulla mobilitazione in corso, nel senso che la maggior parte degli arrestati avevano dai 16 ai 24 anni, quindi tutti giovanissimi. Si è creato un collettivo di avvocati che appunto si è dato disponibile a difendere tutti gli arrestati senza nessun tipo di differenza in base a ciò che, per cui erano accusati, quindi sicuramente da quello che avviene qua. Devo dire che su questo pool di avvocati non so tanto, non so bene come ci sia mosso, ma in generale questa roba qua si inserisce in una situazione di sostegno popolare alla lotta che qua è inimmaginabile. Cioè, per esempio, vi faccio un esempio, i cortei, quelli della domenica, arrivavano sotto le prefetture. Di solito c'era un momento di stallo, a una certa il corteo si apriva, faceva passare qualche decina di incappucciati che trasportavano queste casse piene di Molotov, la gente li applaudiva. Quindi appunto c'era un completo sostegno di linea, la gente ha continuato a stare, non ha abbandonato le piazze nonostante gli sbirri abbiamo fatto delle porcherie, cioè grosse, nel senso che a una certa tiravano le granate in mezzo alla gente che non faceva un cazzo, infatti hanno una quantità di gente, cioè hanno ferito davvero tanta gente. Eppure questa cosa qua ha fatto arrabbiare più che non ha creato divisioni. Quindi diciamo che appunto un'unione che io qua in Sardegna e in Italia io non ho mai visto. Sì, ciao, intanto grazie mille. Mi incuriosiva capire un po' come è avvenuto, come si è svolto il boicottaggio delle elezioni, proprio che pratiche sono state messe in campo, proprio che cosa si è fatto. E siccome dicevi che tantissimi giovani, soprattutto giovani, hanno partecipato alle piazze, se avevano preso parte anche a questo discorso, se lo condividevano, se come l'hanno spinto. E se avete dato una lettura poi invece di quello che è successo, cioè del fatto che l'affluenza al voto è stata alta e insomma se avevate un po' una lettura di che scarto c'è stato lì. Sì, guarda, non ti so dire così tanto su questo, nel senso che in realtà il boicottaggio non ha avuto nessuna pratica a sostenerlo. Nel senso, i due partiti, allora lì diciamo, forse devo fare una premessa che fa capire un po' meglio com'è la situazione. Allora lì ci sono delle organizzazioni indipendentiste e autonomiste che sono o partiti o organizzazioni giovanili, sono però strutture molto formali, sono molto diverse dai collettivi così come li conosciamo noi, sono tutte strutture che hanno un loro referente, che fanno le conferenze stampa, ci sono alcune strutture che esistono da 30 anni. Quindi praticamente cosa è avvenuto? Poco prima delle elezioni, i due partiti indipendentisti più forti, che sono Corsica Libera e Corinfronte, hanno fatto delle conferenze stampe fuori dalla prefettura di Ajaccio e hanno invitato al boicottaggio. Questa pratica qua non è stata sostenuta da nessuna pratica di strada. Quindi hanno fatto questo invito, ma non c'è stata nessuna chiamata pubblica, non è venuto niente nei giorni delle elezioni, proprio niente, tutto taceva. E anche su quanto i giovani si siano presi in carico questo invito, non te lo so dire, perché appunto non essendoci state dei momenti di piazza in cui vedere questo vedere i risultati di questo invito al boicottaggio, non te lo so dire. Ciao, volevo chiederti che peso può avere la stagione estiva nell'ambito delle proteste di piazza e delle azioni notturne, cioè se pensi che può essere un freno in quest'ambito, dare un'accelerata. È una domanda un po' complicata, nel senso, cioè, devo dire, guarda, che io non ho frequentato tanto la Corsica nella mia vita, quindi non so bene come sia vissuta lì l'estate, ma da quello che mi è sembrato di capire, provando a fare anche un paragone con la realtà che vivo io, che è appunto quella sarda, mi è sembrato di capire che comunque lì l'industria delle vacanze porta tanti soldi. Da una parte sicuramente quando quei soldi vanno nelle francesi viene attaccato, o comunque c'è da dire che nella società corsa ha un peso molto grosso la criminalità organizzata, e quindi nel senso tanti degli introiti anche dell'industria turistica vanno nelle casse della criminalità organizzata. Questo è una cosa che io non ho saputo leggere bene, però la mafia lì ha un peso molto forte nella società. Comunque in generale lì l'industria delle vacanze produce tanti soldi, quindi in un modo o nell'altro, anche se a malincuore, anche se con tanta rabbia, comunque i turisti arriveranno e comunque secondo me la stagione ci sarà. Sicuramente sarà un'estate non proprio normale, nel senso che io, se fossi un francese, le vacanze in corso quest'estate non starei proprio tranquillo. Ciao, mi senti? Sì. Allora, ti volevo chiedere un paio di cose sulla polizia. Volevo innanzitutto chiederti, avendo visto per esempio quello che è successo in Catalogna, dove esistono anche delle forze di polizia autonome, volevo chiederti se esistono degli sbirri corsi, quindi quanto questa componente sia presente sia nelle strade, ma anche nel discorso un po' generale, no? Perché un pochino a tratti, ovviamente, comunque non nella componente di scontro. In Catalogna questa qua era stata una variabile, no? Per cui appunto si puntava sulla nostra polizia. Volevo chiederti se appunto c'è qualcosa di simile in Catalogna, oppure appunto la polizia è semplicemente forza di occupazione e basta. In Corsica, scusa, mi ho sbagliato. L'altra cosa, sempre sulla polizia, volevo chiederti se le strategie di piazza adottate durante le manifestazioni sono in qualche maniera assimilabili a quelle che possiamo aver visto negli ultimi tempi, per esempio a Parigi, quindi anche come si rapportava la polizia rispetto, non lo so, alla tattica di piazza, quindi quanto entravano dentro i cortei, quanto osavano caricarli, romperli, lanciare granate, eccetera, eccetera. Quindi un pochino più su questo piano qua. Così, grazie. Guarda, questa è una domanda molto, molto interessante, perché fa venire fuori un aspetto che è tra i più distanti rispetto a quelli che viviamo noi, e cioè i rapporti di forza reali che ci sono in Corsica. Allora, ti rispondo alla prima domanda dicendoti che a differenza della Catalogna, lì chi è corso ed entra in polizia viene direttamente spedito a Parigi. È inammissibile che un corso faccia il poliziotto in Corsica. Non so se ce n'è neanche uno. Probabilmente qualcuno ci sarà, ma gli sbirri sono tutti francesi, perché appunto negli anni passati la polizia, cioè i corsi che erano in polizia, in un modo o nell'altro erano troppo inseriti in quella realtà sociale che comunque è molto chiusa, e quindi mi è stato raccontato che capitava spesso che appunto delle polizie appunto uscivano fuori, che chi doveva non farsi trovare non si faceva trovare perché qualcuno glielo aveva fatto sapere, e quindi negli anni questa qua è stata completamente è stata colpita, nel senso gli sbirri corsi vanno in Francia. Questa domanda che hai fatto appunto tira fuori il tema dei rapporti di forza, che è molto molto particolare. Lì i rapporti di forza sono molto diversi, nel senso che si vede che la polizia ci va proprio molto cauta nelle scelte di come muoversi. Per esempio, quando Ivan è stato aggredito, era il 2 marzo, che se non mi sbaglio era in mezzo alla settimana. Praticamente quei giorni là ci sono stati dei presidi davanti alle prefetture. Tipo per esempio le prefetture sono state oggetto di lanci di pietre, o tipo gli sono stati dati fuoco i cancelli. La polizia non è mai intervenuta. I primi giorni sono stati emblematici di questo rapporto, perché appunto non si sono mai fatti vedere. Nei giorni successivi poi, quando hanno iniziato a mettere in moto la macchina della repressione, sono comunque andati molto cauti. Hanno quasi sempre usato le grate, hanno evitato praticamente sempre lo scontro fisico diretto, hanno fatto un utilizzo di lacrimogene e granate stordenti a dismisura. Però diciamo che lì non è normale vedere tanta polizia in giro, non se ne vede tanta, nel senso che poi soprattutto in questo periodo avevano anche, da una parte avevano paura di essere attaccati, dall'altra non volevano infierire troppo, non volevano far scaldare troppo gli animi. E quindi secondo me ci sono andati abbastanza leggeri all'inizio. Poi andando avanti hanno sicuramente inasprito il controllo, soprattutto ad Ajaccio, che è una città per loro, per i francesi, simbolica, nel senso che a parte che è la città con più abitanti francesi, poi è appunto la capitale della Corsica, ma non la capitale storica, quindi è poco riconosciuta dai corsi, ma i francesi diciamo avevano più necessità di difenderla da un... diciamo che non potevano permettersi ad Ajaccio una figura magra come quella di Bastia. Infatti ad Ajaccio c'era una quantità di sbirri spaventosa, hanno bloccato tutti gli ingressi alla città, hanno filtrato tutte le macchine che andavano, cioè hanno fermato un sacco di macchine che andavano alla manifestazione. Quindi diciamo questa cosa è cambiata nel tempo. In generale i rapporti di forza sono molto diversi da quelli che ci immaginiamo qua. E appunto infatti una cosa che mi ha colpito è che soprattutto nelle prime 2 o 3 settimane non facevano così tanti arresti, anche se, cioè, ne hanno fatto alcuni, ma diciamo che secondo me in alcune situazioni si sarebbero potuti permettere di farne tanti, e non ne facevano anche quando avevano a che fare con gruppetti di 50 persone che si scontravano, cosa che qua secondo me è abbastanza assurda, nel senso che qua se sei in 50 di strada a far macello cercano di asciugarti fino all'ultimo, quindi sì. Spero di essere stato... Ciao, invece io volevo chiederti una cosa che non c'entra con la Corsica, cioè sì, c'entra ovviamente un pochino. No, volevo chiederti che impatto invece aveva avuto tutta questa mobilitazione sulla Sardegna e che contaminazioni aveva generato, se ne aveva generate. Qua, come al solito, ci sono due mondi diversi. Se vai al bar, in tanti parlano della Corsica. Le immagini sono arrivate pure qua, i racconti sono arrivati pure qua. Qua storicamente abbiamo, diciamo, questa abitudine a vedere i corsi come un popolo che lotta. Qua la gente ti dice sì, quelli sì che sono gente seria, però non è niente di più di questo, nel senso che purtroppo, nonostante a dividerci ci siano solo 11 chilometri, la situazione qua è molto diversa. Io per esempio sono stato lì un po' più di un mese, per esempio alle grosse manifestazioni non ho mai visto neanche un sardo, neanche dei rappresentanti, diciamo, politici, quelli che di solito si fanno vedere, quelli che in questi anni hanno coltivato dei rapporti di solidarietà con i capi di partito corsi. L'unico momento in cui hanno partecipato degli esponenti politici sardi è stato il funerale di Ivan, che però appunto dà abbastanza la misura di che gente siano, cioè gente che si vuole far vedere quando c'è da farsi vedere, quando non si rischia niente, ma ben lontani, diciamo, dalle situazioni di scontro e di conflitto sociale. Questo. Ciao. Mi aggancio anch'io a questa domanda, però perché sapevo che comunque storicamente la solidarietà internazionalista rispetto alla lotta indipendentista dei corsi era, cioè, anche molto forte negli anni addietro. E quindi volevo sapere, siccome ho visto anche dalle immagini, per fortuna si vedevano anche un sacco di currine piuttosto che anche bandiere sarde, eccetera, volevo capire un sì. po' a che punto è, diciamo, questo tipo di solidarietà, perché penso che negli anni passati, insomma, quando c'era il fronte, appunto la lotta armata, erano molto vicini, per esempio, al popolo basco, ecco. E poi un'altra cosa rispetto al discorso che faceva il compagno prima sulla questione della polizia, sapevo, adesso non so bene perché è un po' di anni che non seguo più sinceramente, però anni fa appunto c'era questa cosa che invece i poliziotti, invece molti di loro erano corsi proprio per la motivazione appunto repressiva per quanto riguarda la conoscenza del territorio e anche appunto dei militanti, diciamo così, più impegnati, specialmente appunto per quanto riguarda gli attacchi alle strutture turistiche, che erano, penso che come sai, negli anni addietro erano molto presenti, ecco. Guarda, sinceramente, guarda, quello che ho risposto io alla domanda di prima è quello che, diciamo, io ho ricevuto dai racconti delle persone che ho conosciuto, ma probabilmente negli anni addietro era diverso, o magari semplicemente mi hanno raccontato una roba un po' più edulcorata di quella che è davvero. Però a me è stato detto i corsi qua cercano di non farli stare in polizia perché aiuterebbero, diciamo, la gente del luogo. Sicuramente anche per quanto la Corsica è in certe zone poco abitata e molto selvaggia, diciamo, come ambiente naturale, se non sei di là non è facile muoversi e orientarsi, però sinceramente su questo devo ammettere di essere carente, non so. Sulla prima domanda che mi hai fatto invece, a me verrebbe da dire che, cioè, io l'impressione che ho avuto è che nel panorama delle lotte di liberazione nazionale che ci sono in Europa, mi sembra che nel giro, diciamo, dei compagni o comunque nel giro così antagonista, quello corso sia uno dei contesti meno conosciuti e anche guardati con più sospetto rispetto agli altri. Questo, diciamo, lo capisco perché, cioè, secondo me ci sono tanti pregiudizi anche, ma sicuramente il contesto corso è quello più complesso dal punto di vista teorico, per così dire, nel senso che comunque è il contesto in cui ci sono delle rivendicazioni di classe minime, cioè rispetto ai Paesi Baschi quasi nulle, è il contesto in cui convivono all'interno del movimento delle forze molto diverse e per certi versi anche, cioè, sicuramente inaccollabili, nel senso che ci sono delle strutture in cui ci sono dentro sia gente che si definisce comunista sia gente che si definisce fascista. Quindi, diciamo, la realtà corsa è abbastanza complessa e mi sembra che questa caratteristica qua faccia vedere il contesto corso con, diciamo, con un occhio di preoccupazione dal mondo più vicino a noi. Per quanto riguarda la solidarietà internazionale, guarda, io ti dico, io ne ho visto tanta nei momenti, appunto, quelli tipo il funerale. C'erano le bandiere sarde, c'erano le bandiere brettoni, c'erano le bandiere basche. Durante invece le mobilitazioni in piazza, a me non è sembrato che ci fosse tanta gente da fuori, ma questo mi è anche stato spiegato, nel senso che loro non sono per niente abituati a... cioè loro sono abituati a farsi la lotta da soli, non sono tanto abituati a condividere i momenti di piazza con persone che vengono da altri luoghi. Infatti anche io e i miei compagni che sono venuti laggiù, non, cioè, venivamo comunque visti con un occhio di sospetto. Sicuramente i rapporti con le altre, con gli altri posti in cui c'è una ci sono delle rivendicazioni di liberazione nazionale, ci sono, ma sono molto formali. Cioè, per esempio, appunto, ogni anno ci sono due incontri, uno delle organizzazioni giovanili, uno delle organizzazioni, diciamo, dei partiti dei grandi che sono appunto gli scontri internazionali e le giornate indipendentiste, dove appunto si radunano tutte le realtà europee e non solo europee, in cui ci sono delle tensioni di liberazione nazionale, ma è tutto molto formale. Sicuramente i rapporti più stretti sono con le altre nazioni senza Stato che sono sotto lo Stato coloniale francese, quindi Nuova Caledonia, Bretonia, i Parralde, questi tre principalmente. Grazie, intanto io volevo chiederti... vabbè, prima di tutto una cosa molto tecnica, perché io non lo so, cioè quanti abitanti c'ha la Corsica, anche per capire appunto qual è stata poi, cioè, un corteo di 10.000 persone su quanti milioni di abitanti? 300.000. Ecco, appunto, grazie. E poi ti volevo chiedere se durante queste proteste si era, cioè, appunto, le rivendicazioni principali ovviamente erano quelle che hai detto tu, la liberazione dei prigionieri, il riconoscimento del popolo corso e della lingua, eccetera. Ma mi chiedevo anche se, oltre allo slogan principale, che era appunto Stato francese assassino, se si riconoscesse comunque nello Stato in generale un nemico, o se il nemico era esclusivamente lo Stato francese. E anche in merito a quello che dicevi tu prima, che vedevi i rappresentanti delle organizzazioni giovanili parlare poi con i capi di partito, eccetera, se queste figure non fossero cioè, state viste come invise o nemiche, oppure se fossero viste come alleate. Sì, ti ringrazio la domanda perché mi fai dire delle cose che mi sono dimenticato nella mia introduzione. Appunto, c'è una frase che i corsi dicono spesso e che però secondo me è emblematica del Movimento di Liberazione Nazionale, e cioè loro dicono: noi arriviamo all'indipendenza, poi vediamo che cosa fare, poi sicuramente litigheremo, però lo vediamo dopo. Appunto, loro hanno questo modo di non parlare di ciò che li divide, per trovarsi in ciò che li accomuna, che è appunto questa loro forma di nazionalismo, questa loro appunto difesa della nazione corsa, che poi si esprime appunto o nella visione autonomista o nella visione indipendentista. Però loro non parlano di che cosa vogliono dopo, e infatti all'interno del movimento convivono, appunto, come dicevo prima, tensioni molto diverse: gente che vuole lo Stato e gente che non vuole lo Stato. Cioè, all'interno dello stesso collettivo ti trovi gente che dice dobbiamo fare lo Stato corso, e gente che ti dice una liberazione nazionale senza una rivoluzione sociale, un'uscita dal sistema capitalistico, non serve a niente. Questa gente qua sta insieme, perché appunto loro dicono: noi prima dobbiamo raggiungere questa cosa qua, poi vediamo. Secondo me questa è sicuramente una carenza, nel senso che tutte le, diciamo, le diversità e appunto le visioni di un mondo diverso da quello che viviamo adesso vengono, diciamo così, ridotte a una causa comune. Però in questo loro ridursi ad una causa comune riescono a trovare una forza, cioè, secondo me senza paragoni, nel senso che comunque appunto i corsi sono pochi. Se pensate che appunto sono 300.000 gli abitanti della Corsica, i corsi sono ancora meno, e comunque per uno che non è corso non è così facile, secondo me, identificarsi nella lotta di liberazione, soprattutto se sei un francese, perché ti odiano tutti. Quindi, diciamo, nel senso, il tasso di gente che è a favore della causa nazionalista è tantissimo. Alle ultime elezioni la coalizione, diciamo i partiti indipendentisti e autonomisti, hanno preso quasi il 70% dei voti. Questo più o meno, secondo me, dà un po' l'idea di quanto quell'idea lì è sostenuta. Però in questo vengono, diciamo, ridotte tutte le rivendicazioni di altro tipo. E ovviamente è difficile, diciamo, partendo dai nostri punti di vista, fare dei compagni là, perché appunto tutti sono o indipendentisti o autonomisti. Va bene, allora ti faccio giusto io un altro paio di domande al volo, poi magari ti lasciamo se non ci sono ulteriori domande da parte dei compagni e le compagne qui presenti. Allora, già del fascismo più o meno hai parlato, comunque delle frange destrorse. Ti volevo chiedere una cosa che magari non so se sai: da dove proviene, in caso, questo razzismo che c'è comunque un po' insito anche contro la comunità, diciamo, magrebina o islamica, appunto in Corsica? Io mi ricordo nel 2014 c'erano state un po' di situazioni di tensione in Corsica, appunto quella frangia di persone ghettizzate che vivevano, se non mi sbaglio, a Bastia, una certa si era anche rivoltata per delle situazioni abbastanza crescenti di intolleranza nei loro confronti. Questa era una domanda. E poi tu hai parlato un po' delle correlazioni appunto dell'indipendentismo corso con altre realtà, soprattutto francesi. Non hai nominato la Martinica, che in questi giorni è stata dichiarata ingovernabile da Macron. Volevo sapere se questa cosa qui, insomma, cioè in Corsica è recepita, se sì e come. E poi l'ultima curiosità, io seguendo un po' di pagine Facebook di movimenti, insomma, corsi, ho visto che la gioventù indipendentista è andata praticamente in Sicilia a fare un convegno con qualcuno dei Paesi Baschi, della Catalogna, dei Bretoni, e questa sigla Sicilia, Repubblica Libero, Stato Libero, non ho ben capito, quindi volevo capire gioventù indipendentista come si poneva, se appunto era un pelo più di destra o meno, oppure se si ricollega, come hai detto tu finora, semplicemente alle posizioni autonomiste o indipendentiste. Sì, allora, rispetto a dove viene questo razzismo che in Corsica esiste, che ogni tanto non rimane neanche sotterraneo, devo ammettere che non ti so rispondere, perché non ho una conoscenza della società corsa così approfondita, non l'ho frequentata neanche così tanto negli anni passati. Sicuramente l'incontro tra delle posizioni nazionaliste ultra radicali, e quindi appunto posizioni che parlano di difesa della nazione corsa facendone un discorso quasi etnico, con appunto, come dicevo prima, una presenza di immigrati molto alta, questi due incontri hanno creato appunto delle forme di razzismo evidenti, probabilmente anche perché la società corsa appunto è molto chiusa, è animata da, diciamo, da hanno un modo di fare che è quasi clanico, nel senso che sono tutti molto legati alla famiglia. I partiti sono tipo, se la tua famiglia fa parte di un partito, tu probabilmente entrerai in quel partito. Hanno una struttura molto, diciamo, chiusa. Sicuramente le tensioni più dure di queste tensioni qua hanno poi prodotto delle visioni razziste anche della lotta. Rispetto a ciò che mi chiedi dopo, e alla gioventù indipendentista, allora non ci sono delle strutture. Cioè, allora, per esempio, c'è un gruppo che si chiama La Muvra, che loro sono di destra. Poi, per esempio, uno dei principali partiti indipendentisti che corre in fronte, tutti dicono che è di sinistra. Però al suo interno ci sono anche della gente. Io, per esempio, a Bastia ero nel bar di Corre in Fronte e ho beccato uno che mi ha detto: io sono per Hitler e Mussolini. Quindi, diciamo, è una situazione un po' così, molto, molto mista. Quando parlo di questa cosa qua, racconto sempre un episodio che è avvenuto a Bastia durante il corteo, che secondo me riassume bene la convivenza conflittuale che c'è all'interno del movimento corso di queste due anime, che è conflittuale ma è comunque una convivenza. Perché appunto a fianco alla una delle barricate principali, un tizio ha scritto "arabi fora". Subito dopo arriva un altro tizio che lo cancella e scrive "fascisti fora". Subito dopo arriva un altro tizio che lo cancella e scrive "fascisti in forza". Poi arriva un altro tizio e cancella tutto. La situazione è proprio questa. All'interno di questo movimento qua convivono delle tensioni molto diverse. La gioventù indipendentista storicamente ha avuto, diciamo, delle figure diciamo che comunque si sono espresse su tensioni molto più vicine alla sinistra che alla destra. In questo momento, in cui comunque non è in gran stato di salute, nel senso che non conta tanti militanti, nel senso che in questo momento la gioventù indipendentista ha una ventina di militanti, mentre 6 o 7 anni fa ne aveva quasi 200. In questo momento non si può dire che è di destra o di sinistra. Io le persone che ho conosciuto mi sono sembrate di sinistra. Poi sì, hanno partecipato a questo incontro in Sicilia che si era organizzato da Trinacria, che niente, ha radunato appunto, io quelli di Trinacria li conosco e loro sono gente che faceva parte della, e comunque vicini all'autonomia italiana, quindi hanno dovuto Trinacria quella roba lì. Rispetto alla Martinica non so un cazzo, te lo dico proprio così papale, non so, non ho neanche letto la notizia, mi dispiace, non so risponderti. Va bene, grazie, no, questa era una curiosità perché un compagno mi aveva fatto notare sta cosa e niente, va bene, se non ci sono altre domande noi ti ringraziamo per la disponibilità e niente, ti auguriamo una buona serata e grazie ancora. Dai, anche a voi, grazie. Ciao. Ciao, buona serata. Ciao.